30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Il maresciallo Hussein Tantawi, a capo del Consiglio Militare al Potere in Egitto, ha esortato i cittadini a recarsi alle urne nelle presidenziali in programma la prossima settimana, il 23 e il 24 di maggio. Tantawi, al potere da quando il regime di Hosni Mubarak è stato rovesciato lo scorso anno, ha chiesto agli egiziani di assumersi la loro responsabilità nazionale nelle elezioni e di scegliere un presidente per tutto l'Egitto. L'Egitto, che ha detto, offrirà un esempio al mondo con elezioni libere e trasparenti che rifletteranno la volontà popolare. Buonasera cari ascoltatori, bentornati all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Certo, l'attualità di questi mesi, di queste settimane ci impone di dedicare tutta la nostra attenzione a ciò che accade all'interno del nostro paese, all'interno dello spazio europeo, ma intanto intorno a noi e in fondo non così lontano, perché questa è l'area del Mediterraneo, si muovono fenomeni, si vivono momenti importanti. Uno di questi lo è senza dubbio quello della prossima settimana, naturalmente secondo il calendario del voto di un paese musulmano, dunque a metà della settimana il primo turno delle presidenziali in Egitto, un paese chiave dal punto di vista demografico, politico, ideologico, un luogo di cultura, di università dove si forma il pensiero anche di una classe dirigente e di un popolo ben oltre in realtà quello egiziano. Basterà ricordare che 3 anni fa il presidente nuovo, il nuovo leader di Washington, Barack Obama, scelse proprio il Cairo, l'Università Al-Azhar, per rivolgere un messaggio e un discorso, in quel caso di pacificazione, di apertura di nuove linee di dialogo appunto con il mondo islamico. Insomma, queste elezioni sono importanti, ma ci sono tante incognite. Questa sera abbiamo con noi un'esperta, qualcuno che ci aiuterà a capire intanto qualcosa di più dei grandi protagonisti, se ne sta parlando molto, dei fratelli musulmani che potrebbero essere, di fatto lo sono già in parte, e potrebbero essere addirittura ai vertici appunto della leadership egiziana. Con noi è Antonella Colonna Vilasi, ringrazio di essere con noi stasera, buonasera. Buonasera a lei. Allora, Antonella Colonna Vilasi è storica, è giurista internazionale, è criminologa. Ecco, come mai questi temi si incrociano così tanto quando andiamo poi a parlare di un paese come l'Egitto? Indubbiamente sì, le tematiche di mia specializzazione seguono un fil rouge che parte appunto dall'analisi di fatti come sono i fatti di politica internazionale con i fatti di criminalità internazionale. Tornando all'Egitto, il 23 e il 24 maggio si vota per le elezioni presidenziali e si tratta delle prime elezioni dopo la rivoluzione di gennaio e febbraio del 2011. Per la seconda volta nella storia dell'Egitto ci saranno almeno 2 candidati a contendersi la presidenza dopo le contestate elezioni presidenziali del 2005 vinte dall'ex presidente egiziano Hosni Mubarak, che ricordiamo ottenne l'80% dei voti. Allora si votava ancora di fatto con il partito unico. Oggi esatto. Il mondo è cambiato, tra le altre cose in questi ultimi giorni gli egiziani hanno assistito per la prima volta al dibattito televisivo tra i candidati, una cosa, come dire, rivoluzionaria. Certo, infatti questa volta i candidati sono molti. Tra di essi dobbiamo ricordare Amr Moussa, che secondo i sondaggi è uno dei favoriti a diventare il prossimo presidente egiziano. È molto conosciuto anche in Occidente perché è l'ex segretario generale della Lega Araba e anche ex ministro degli esteri con Mubarak. In passato però ricordiamoci è stato molto critico nei confronti della politica estera di Stati Uniti e di Israele, soprattutto per quanto riguarda la questione palestinese. Altro candidato è Hazem Salah Abu Ismail, che è un avvocato e anche presentatore televisivo, quindi è conosciuto dagli egiziani, è un ultra conservatore salafita e da un po' di tempo è al secondo posto nei sondaggi, negli exit poll egiziani. In passato ha dichiarato di voler rendere obbligatorio il velo per le donne, una volta eletto chiaramente, e vietare l'alcol in tutto l'Egitto, anche per i turisti, così come intende vietare i giochi d'azzardo. Che cos'è un ultraconservatore salafita? Adesso poi andremo ad analizzare alcuni di questi movimenti che lei studia, ma nella possibilità di una quotidianità egiziana, questo che cosa significa? Significa un modello iraniano? Non proprio iraniano, però è un ritorno all'Islam puro, quindi la salafia è il ritorno a un Islam che è l'Islam incontaminato, è l'Islam quindi del profeta e dei suoi primi seguaci. E ritornando invece a Sam Falabu Ismail, però si è scoperto recentemente che sua madre ha cittadinanza americana e questo potrebbe fargli perdere parecchi voti tra i salafiti. Altro candidato abbastanza papabile è Abdel Moneim Abdul Fattah, che è un ex dirigente dei Fratelli Musulmani, però è uscito dal movimento perché i Fratelli Musulmani avevano annunciato di non voler candidare nessuno dei loro esponenti. Abdul Fattah quindi corre da indipendente, è un medico, è un islamista moderato, è molto popolare tra i giovani e inoltre molto noto anche perché spesso in TV. E questi sono i candidati. Ecco, questi naturalmente sono tre, lo ricordo, e complessivamente attualmente sono 12, ma insomma i tre questi che sono ci ha descritto sono i più importanti. Volevo chiedere su questo punto, lei scrive nel suo ultimo lavoro Islam tra pace e guerra, per capire il fondamentalismo islamico bisogna riferirsi a un movimento nato in Egitto nel 28, quello dei Fratelli Musulmani. Dunque, i Fratelli Musulmani sono un partito politico, sono stati al bando a lungo, ma sono in realtà una presenza storica che è anche una delle ragioni per cui l'Egitto è un paese guida nel mondo islamico. Sono un movimento unitario, sono monolitico, come a volte immaginiamo siano i partiti, soprattutto quelli nell'area musulmana, oppure come in realtà fa parte della storia nostra, ci sono le correnti, l'abbiamo avute nella Democrazia Cristiana, le abbiamo ancora oggi. Insomma, ci sono varianti di questo grande movimento? Beh, certo, i Fratelli Musulmani non sono monolitici, ma sono divisi in vari movimenti, in vari gruppi. Ricordiamo che è un movimento che è nato in Egitto, in un luogo che è l'università, ed è stato fondato nel 1928 da Hassan al-Banna. Inizialmente in realtà negli anni 20-30 erano pacifici, però vedevano nell'Islam l'unica strada possibile per un'organizzazione della società e una risposta al mondo occidentale che vedevano e percepivano come pericoloso. Diciamo che in un certo senso i Fratelli Musulmani sono dei fondamentalisti, tra virgolette, modernisti, chiuse virgolette, nel senso che seguono il Corano, che è il libro sacro, e la Sunna, che sono gli insegnamenti tratti da Maometto. La struttura è una sorta di società dei fratelli, appunto, dei Fratelli Musulmani, che è divisa in quattro gradi di affiliazione. Al vertice di questa struttura dei Fratelli Musulmani vi è tutt'oggi la figura di un leader che è poi la persona di la guida suprema, il Murshid Alam, che è il leader di riferimento. Ecco, una struttura dunque organizzata, gerarchica, ma adesso sentiamo insieme allora come intanto vanno le cose sulle strade italiane. Poi torniamo con Antonella Colonna Vilasi e cerchiamo di capire anche in che modo i giovani egiziani, che non solo in Egitto sono i grandi protagonisti di questi movimenti dell'ultimo anno e mezzo, tenderanno a comportarsi e probabilmente anche a condizionare dunque l'esito finale del voto. 30 minuti in cronaca. Presidenziali in Egitto, dunque, questa sera ne parliamo con Antonella Colonna Vilasi, autrice tra l'altro di Islam tra pace e guerra. Insomma, i movimenti, il partito, i Fratelli Musulmani, certi protagonisti lo sono già, ma non necessariamente vincitore alle presidenziali. Abbiamo visto che ci sono quantomeno tre candidati forti sui 12 che comunque si presentano, una struttura militare che dice è il momento di passare la mano, e i giovani egiziani che con i loro coetanei di tutto il mondo arabo sono stati protagonisti di questi mesi, di questo oltre anno di proteste e cambiamento. Dove si schierano? In che modo condizioneranno il voto? Indubbiamente in Egitto, come del resto in Tunisia e in Algeria, la maggior parte della popolazione ha meno di 30 anni e quindi i giovani saranno la forza trainante di queste elezioni. Ricordiamoci come in questo contesto, nei primi giorni di protesta a piazza di Tahrir, proprio l'uso di internet e dei social networks come Facebook e Twitter, utilizzato dai giovani per fare una specie di chiamata alla protesta, si è rivelato importante per organizzare e mobilitare il movimento. Quindi i giovani sono importanti nell'esito finale, il voto giovanile sarà molto importante, tant'è che all'indomani della rivoluzione egiziana l'attivismo giovanile si è ulteriormente intensificato, esprimendosi attraverso una molteplicità di forme: gruppi giovanili, costituzione di gruppi giovanili, di bloggers, collettivi di informazione e partiti politici. E infatti in Egitto all'indomani delle proteste di Piazza Tahrir abbiamo visto una continuazione delle attività giovanili che hanno proprio nel corso dello scorso anno, degli ultimi mesi, fatto una sorta di pressione sulle autorità ad interim, che ricordiamo sono autorità militari, affinché avanzassero sulla strada delle riforme politiche. Quindi i giovani egiziani richiedono un cambiamento democratico verso un potenziamento delle libertà individuali e politiche. Si può essere giovani e aspirare alla democrazia e essere fondamentalisti? Certo, certo. Quindi non c'è una contraddizione, pone i giovani in un terreno piuttosto che un altro. Noi abbiamo una tendenza, che chiaramente immagino sia legata alla nostra cultura occidentale, ad associare il fondamentalismo al vecchio. Nella dinamica egiziana le cose non vanno così. No, assolutamente. Diciamo che la capacità dei giovani egiziani di sensibilizzare le campagne di informazione sulla transizione politica in vista di queste elezioni presidenziali sono importanti, però la loro capacità di influenzare i processi decisionali è a tutt'oggi molto limitata. In queste prime fasi, infatti, benché molto dinamico, l'attivismo giovanile in Egitto è rimasto purtroppo, ed è questo il vulnus della questione, frammentato in molteplici espressioni di gruppi giovanili, di comitati di disoccupati, di associazioni non governative, per lo più non coordinate tra loro, divise da questioni ideologiche, strategiche e di appartenenza sociale, quindi prive di una strategia di lungo termine, di una leadership, di una mission. E questo è il problema dei giovani egiziani: non vi è coesione, disunità. Un problema che evidentemente condividono con coetanei non solo di molti altri luoghi del mondo. Anche per questo forse figure come Amr Moussa, che comunque rappresenta il vecchio per comodità e la continuità rispetto al mondo di Hosni Mubarak, possono avere successo, forse, e questo lo dico io, possono comunque rappresentare una sicurezza nella continuità. A proposito di sicurezza, continuità e interessi, ho citato il discorso di Obama, quello di Al-Azhar di 3 anni fa, che naturalmente ha un forte significato simbolico. Da questo punto di vista Amr Moussa, critico verso l'Occidente e verso vari aspetti, però rappresenta qualcosa di conosciuto. Dal punto di vista delle relazioni, quanto è rischioso questo nuovo, così antico peraltro, rappresentato dai Fratelli Musulmani per le relazioni internazionali? Indubbiamente i movimenti che hanno caratterizzato nell'ultimo anno la Tunisia, e anche adesso vediamo cosa succederà in Algeria, perché prossimamente ci saranno anche le elezioni in Algeria e a tutt'oggi non si capisce quale sarà la posizione dei militari, che hanno sempre avuto un ruolo strategico, certo, nelle elezioni algerine. E relativamente, tornando all'Egitto, insieme alla Costituzione, cioè il significato di questo voto è che insieme alla nuova Costituzione, quindi alla redazione di una nuova Costituzione egiziana, le elezioni presidenziali in Egitto sono formalmente l'epilogo di una rivolta popolare e l'elezione di un nuovo presidente. Il ruolo che questi avrà, sarà o non sarà Amr Moussa, influirà molto sulla politica interna del paese per quanto riguarda la democrazia, la laicità. Come dicevamo, i Fratelli Musulmani hanno invece un approccio confessionale, non laico. E saremo a osservare quello che sarà nelle prossime appunto elezioni del 23-24 maggio il ruolo, ecco, delle forze armate e quindi della politica estera che avrà l'Egitto, soprattutto in relazione ad Israele e agli Stati Uniti e alla questione palestinese. Un classico. Ricordiamoci un classico. Che il nuovo presidente avrà un mandato di 6 anni. È un tempo lungo. Sì, e poi l'eventuale ballottaggio che, vista l'incertezza dei sondaggi, come dicevamo, sembra probabile, si terrà il 16 o il 17 giugno. Per votare bisogna essere nati in Egitto da genitori egiziani, ecco perché c'è un candidato che era Abu Ismail, che è in forze, visto che ha la cittadinanza americana, cioè in parte, potrebbe, certo, perdere parecchi voti tra i salafiti proprio per questo. Bisogna essere quindi cittadino egiziano, non avere doppia nazionalità e non avere coniuge straniere. Ecco, straniero. Un'ultima domanda, dottoressa Colonna Villasi, l'Egitto rappresenta, visto che questo voto è così importante, rappresenta e rappresenterà ancora un faro, come dire, un modello di riferimento per altri paesi arabi e musulmani, penso alla Siria, ma penso anche al Sudan e appunto a grandi paesi della regione? Certo, indubbiamente l'Egitto ha sempre rappresentato, nel corso anche degli anni, ricordiamoci che la prima università è nata appunto da Al-Azhar, l'università dell'Al-Azhar, la più antica università araba, ha sempre costituito un luogo di irraggiamento della cultura e dell'Islam, l'Islam della cultura. Le università cairote sono le più conosciute, tant'è che sono talvolta la dottrina nasce proprio in queste strutture, in queste università, in questi luoghi di cultura. E l'Egitto è sempre stato il faro, è sempre stato un punto di riferimento per altri paesi, quindi l'Egitto ha una posizione inoltre a livello geopolitico molto importante, vista la vicinanza con Israele e con altri paesi come la Siria. Insomma, sull'Egitto si continua a concentrare l'attenzione non solamente degli egiziani, ma del mondo islamico e dunque gli interessi anche dell'Occidente, dell'Europa. Io ringrazio Antonella Colonna Villasi, lo ricordo, Islam tra pace e guerra, questo è il suo ultimo lavoro sui movimenti, appunto sul legame anche tra cultura, tra politica e terrorismi internazionali e movimenti di destabilizzazione. Ringrazio anche il nostro regista Filippo Reggi, saluto voi, l'appuntamento con 30 minuti in cronaca come sempre sabato a partire dalle 19:30 circa. Buon fine settimana.